L'incidente del chiosco è successo nella notte tra il 25 e il 26 febbraio. Loro, i due titolari, Shamal e Shompa, sono stati avvisati da dei vicini che hanno visto le fiamme. Inizialmente, dopo che sono intervenuti i pompieri, abbiamo dovuto attendere per sapere l'esito di quello che era successo e ovviamente la parte di ispezione, di indagine dei vigili del fuoco. Qualche settimana fa, circa un paio di settimane fa, abbiamo fatto accesso agli atti pubblici dei vigili del fuoco e abbiamo certificato, mostrando anche l'atto pubblico sul sito di GoFundMe, che è quello della campagna fondi, proprio l'atto dell'ispezione dell'intervento dei vigili del fuoco, che certifica che è stato un incidente di peso, verosimilmente insomma da un guasto, un malfunzionamento dell'impianto elettrico del chiosco. Loro purtroppo a suo tempo furono consigliati male, il chiosco è un chiosco che loro hanno comprato in gestione circa una decina di anni fa. Nel comprarlo sono stati consigliati male perché gli hanno detto che insomma non serviva un'assicurazione a livello di incendio, ma l'avevano suggeriti di fare esclusivamente quella sui furti. E siamo arrivati quindi a distanza di anni dove la loro impresa, il loro chiosco invece effettivamente per un guasto tecnico è stato bruciato. Questo è. Avete avviato una raccolta fondi per dargli una mano. Ti chiedo di raccontarmi che cosa vi ha spinto ad avviarla e come si sta organizzando. Allora, diciamo, la raccolta fondi è iniziata sulla piattaforma GoFundMe, l'abbiamo iniziata da circa una settimana, step by step l'abbiamo organizzata, quindi il primo step è quello legato alla rimozione del chiosco, quindi primo obiettivo 6.500 euro, certificati anche questi sulla stessa piattaforma, quindi con tanto di preventivi, e lo stiamo raggiungendo, siamo quasi arrivati al primo step della rimozione del chiosco. Il secondo step è la ricostruzione del chiosco, che è il preventivo effettivamente più alto, quindi da questo punto di vista abbiamo ancora da pedalare ovviamente perché abbiamo necessità di arrivare alla ricostruzione totale del chiosco, che se usato, perché poi non è detto che riusciamo a mettere quello usato perché deve stare all'interno delle misure e rispettare le misure del suolo pubblico previste, si parla di un chiosco usato da 20.000 euro più o meno, IVA compresa, e poi ovviamente ci vuole l'arredamento interno, quindi arriviamo a quella cifra tonda dei 40.000 euro tra la rimozione del chiosco, le spese straordinarie dell'arredamento e l'acquisto del chiosco usato, il 40.000 euro totali per riuscire, diciamo, a dare una mano a Shamal e Shompa. Nell'ipotesi in cui il comune dia il diniego, quindi non dia l'assenso a per motivi insomma di spazio di suolo pubblico al chiosco usato, si dovrà andare sull'acquisto di uno nuovo e lì si parla di una cifra molto più ampia, che sono sui 70-80.000 euro circa. Però intanto il nostro obiettivo della campagna è raggiungere i 40.000 euro, che per Shamal e Shompa sono comunque sicuramente ovviamente una parte assolutamente importante, e poi lato loro faranno un finanziamento se si dovrà andare su un chiosco nuovo. Vuoi rilanciare questa raccolta fondi? È importante dare una mano a Shamal e Shompa, bisogna assolutamente non fermarsi al primo obiettivo. Siamo quasi alla conclusione del primo obiettivo, ma adesso la salita è ardua, abbiamo bisogno di voi per donare e fare veramente crescere ulteriormente la speranza di Shamal e Shompa di poter riavere il loro chiosco e iniziare quindi dopo la rimozione a costruire il chiosco nuovo. Dateci una mano, grazie davvero di cuore anche da parte loro.